America 24 di Mario Platero. Banks will no longer be allowed to own, invest or sponsor hedge funds, private equity funds or proprietary trading operations for their own profit. Un tuffo nel passato, un colpo di spugna sul conglomerato finanziario e sulle teorie che da decenni ci dicono quanto le istituzioni finanziarie, con i loro interventi sul mercato e con la loro predisposizione ad operare sempre più come un supermercato dove si trova di tutto, contribuiscono ad eliminare le inefficienze di mercato. Da ieri, con l'annuncio di Obama per la separazione delle attività di banche d'affari da quelle di banche commerciali, il lungo cammino verso l'emancipazione potrebbe essere tornato bruscamente al punto di partenza, come nel gioco dell'oca. We prevent further consolidation of our financial system. Mai più il contribuente americano diventerà ostaggio di una banca troppo grande per poter fallire. Con questa promessa solenne nel tono e nella sostanza, Obama dice basta con le operazioni speculative. Le grandi banche commerciali non potranno più condurre operazioni sul mercato per conto del loro portafoglio. Dovranno scegliere o di qua o di là. Di più, le banche non potranno avere fondi private equity o hedge fund, e le grandi banche commerciali che sceglieranno le attività più tradizionali, quelle per la raccolta di depositi, con cui poi devono concedere prestiti alla comunità in cui operano e contribuire così allo sviluppo economico, queste banche avranno limiti sulle dimensioni dei depositi che potranno raccogliere. Un giro di vita, insomma, che potrebbe cambiare il mondo della finanza così come lo abbiamo conosciuto finora. The populist aspects of this are clear. La voce che avete sentito di David Widner di Market Watch è favorevole a questa innovazione di Barack Obama, perché dice le banche sono andate fuori controllo. Era molto meglio avere questa separazione. Il conflitto di interessi è inevitabile. Le banche hanno dimostrato di non essere in grado di autocontrollarsi e dunque una separazione netta non può che aiutare il mercato. Ma la polemica infuria. The best way to reduce risky proprietary trading is not by trying to outlaw it, rather. La voce che avete sentito, contraria invece alla proposta di Obama, è quella di Mickey Levy, capo economista di Bank of America, una delle banche che sarà più colpita da questa decisione del presidente. E Levy ci tiene a sottolineare che è intellettualmente contrario a quel che ha deciso il presidente, e lo dice perché? Perché il suo pensiero è personale, da economista, sottolinea, non da dipendente di Bank of America, e dice che saranno colpiti tutti. Ci sono altri modi per raggiungere lo stesso obiettivo. Si possono aumentare i rapporti di capitale e indebitamento, ma non proibire le attività. Questo è brutto. Poi ognuno decide se gli conviene, ma la decisione è possibile. Il mercato resta aperto, la possibilità di liquidità teorica disponibile per finanziare operazioni o sottoscrizioni di mercato è presente. E gli eccessi delle banche, lo chiediamo a Levy, hanno sbagliato? Mistakes certainly were made by banks in two broad areas. Ammette, hanno sbagliato, ma non solo le banche. Non ha forse sbagliato anche la Federal Reserve a lasciare i tassi di interesse troppo bassi, troppo a lungo? Non hanno forse sbagliato il Congresso, la Casa Bianca a incoraggiare i prestiti subprime e a chiedere a Fannie Mae e a Freddie Mac di sottoscriverli? Hanno sbagliato tutti, dice Levy, ma qui si mette all'indice il sistema bancario, gravissimo, perché a pagare poi sarà l'economia in termini di inefficienze e di crescita economica. E questa, dice Levy, non è una minaccia, è un pronostico. Di certo Wall Street è preoccupata. Ogni limite, si pensa in borsa, affossa il mercato, e questo è un limite mega. Il Dow Jones ieri è andato sotto del 2%, 213 punti, il Nasdaq 1,12%, sono stati bruciati tutti i guadagni realizzati finora nel 2010, reazione dunque pessima del mercato. E il vero metro per misurare l'insoddisfazione lo troviamo nell'andamento dei titoli bancari americani. JP Morgan Chase al ribasso del 5%, Bank of America 5,22%, Morgan Stanley sotto del 4,8% e Goldman Sachs, che pure ieri aveva dato dei profitti molto al di sopra delle aspettative, è sotto del 4,52%. Di certo le banche scateneranno un'offensiva durissima contro la Casa Bianca. La forza delle lobby finanziarie è enorme e la loro presa va ben al di là del Partito Repubblicano. Nuova fonte di tensione dunque in America. It was a 5-4 decision. The court repealed a 1990 ruling of its own. Altra pagina di storia in questo fine settimana che si avvicina e che si fa sempre più intenso. La Corte Suprema americana ha eliminato una barriera secolare, ha rotto gli argini dei finanziamenti elettorali. Tutti, aziende e sindacati, non avranno più limiti. Se vogliono finanziare un candidato o più in generale campagne elettorali, potranno farli. Una svolta. Il giudice Anthony Kennedy, che ha scritto la mozione di maggioranza, dice: «Se c'è una forza nel primo emendamento della Costituzione è quella di impedire al Congresso di multare o incarcerare associazioni o cittadini semplicemente perché si intrattengono nel discorso politico. L'invocazione dunque è nella libertà di espressione». Ma la risposta dei quattro democratici o comunque dei quattro giudici liberal che hanno votato contro è altrettanto chiara. Si commette un grave errore nel paragonare la libertà di espressione di un'azienda con quella di un essere umano, ha detto John Paul Stevens, l'autore del testo dei dissidenti. Una decisione difficile, 5-4, che riflette la spaccatura ideologica dei nove giudici. I 5 conservatori hanno votato con la maggioranza, i 4 progressisti, come abbiamo detto, con l'opposizione. Lo sviluppo potrebbe aumentare i costi di fare politica, già esorbitanti, e la dipendenza dei politici dalle lobby. Le reazioni, sentiamo intanto quella di Barack Obama. Si dà luce verde, dice il presidente, agli interessi particolari nella nostra politica. Questa, ha continuato, è una grande vittoria per i giganti petroliferi, le mega banche, le compagnie di assicurazione e altri interessi dominanti che tutti i giorni concentrano il loro potere su Washington per soffocare la voce degli americani. E ha chiesto al Congresso, a Chuck Schumer, di intervenire al più presto per revocare questa decisione con una proposta di legge nuova e impermeabile alle intrusioni della Corte Suprema americana. Il populismo avanza, ma forse Obama in questo caso non ha tutti i torti. Sentiamo l'avvocato George Pavia, il decano degli avvocati italiani a New York, con una credibilità particolare per noi, perché è stato il maestro di Sona Sotomayor, il nuovo giudice in Corte Suprema, che ha votato per la prima volta ieri ed ha votato contro. Che Sonia abbia votato contro questa sentenza non mi sorprende oltremodo, perché è una decisione che apre troppo la porta alle società. E ricordiamoci che c'è questo fin da sempre, questa tensione fra la libertà assoluta e la necessità di regolare certe cose. E il rispetto del primo emendamento, la libertà di espressione, cosa ci dice l'avvocato Pavia su questo? Che hanno un peso sproporzionato in parte, e perché la vecchia legge era un tentativo di eliminare un pochettino la politica dalla vita, chiamiamo, del Senato e della Camera dei Rappresentanti. Internet is a network that magnifies the power and potential of all others. And that's why we believe it's critical that its users are assured certain basic freedoms. Una voce conosciuta, familiare, quella di Hillary Clinton, che gioca al rilancio contro le intrusioni cinesi, anzi, diciamolo, del governo cinese su Google, sulla libertà di espressione e soprattutto sulle libertà civili. Il segretario di Stato ha parlato su Internet, proprio per dare una valenza simbolica a quello che voleva dire, e ha detto: una nuova cortina di ferro sta calando sul mondo, è una cortina che minaccia di oscurare l'informazione e Internet. La denuncia è venuta appunto dal Dipartimento di Stato e ieri Hillary ha trasformato l'autostrada elettronica, la sua sicurezza e la sua libertà in una priorità di politica estera per gli Stati Uniti, la terza svolta di questo fine settimana che si avvicina. Instead of division, it stands for connection. Dobbiamo condividere l'inno alla libertà online della Clinton, ma non dobbiamo dimenticare i nuovi dilemmi che sorgono dalle nuove tecnologie, i loro vantaggi e i loro pericoli. Ricordiamolo, i text message hanno salvato haitiani intrappolati nelle macerie del terremoto, hanno consentito di raccogliere 25 milioni di dollari in aiuti per la nazione caraibica e hanno aiutato in generale a promuovere trasparenza, democrazia. Ma dobbiamo anche sapere che di Internet possono impadronirsi terroristi di Al-Qaeda, regimi autoritari impegnati nella depressione. Lo sappiamo, ma questo non giustifica né giustificherà mai violazioni sistemiche dei diritti e della privacy di chi usa Internet per fini politici. Per questo la Clinton chiude con un appello alle aziende americane. Noi lo facciamo a quelle italiane. Mettete sempre in discussione le richieste di censura da parte di governi stranieri. Ed eccovi la Google Song. Ci sono mille altre notizie, pettegolezzi, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su America 24, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana, america24.com. Eccone alcune di queste anticipazioni. John Edwards, ex candidato per le primarie democratiche, ammette: ho una figlia illegittima, il tabloid spazzatura National Enquirer aveva ragione e si candida al Pulitzer. È iniziato il Sundance Festival, il cinema indipendente in mostra in passerella, Ben Affleck, Orlando Bloom e Natalie Portman. Ed eccoci al finale, la nostra canzone del giorno. Eric Segal ci ha lasciato nella sua casa di Londra, città d'adozione. Alla carriera come sceneggiatore era arrivato quasi per caso, nato a New York, professore di letteratura greca e romana a Yale. La sua fortuna fu Love Story. Prima scrisse il libro, poi la sceneggiatura del film che racconta la drammatica storia d'amore tra una ragazza italiana nata da una famiglia modesta e un altolocato studente di Harvard. E dunque, in una giornata dura, con innovazioni epocali, controverse, polarizzanti, lasciamoci con questa canzone dedicata all'eternità, alla forza, al primato dell'amore su tutto. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll meet her till the stars all burn away, and she'll be there. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, grazie per avermi ascoltato in questa prima settimana di America 24, vi do appuntamento a lunedì, goodbye and get going!